Verso mezzanotte ebbe una crisi di lacrime, soffocò i singhiozzi, mordendo il guanciale, torse le braccia, si graffiò il petto, si strappò dal collo l'amuleto datogli da Olì il giorno della loro fuga da Fondi e lo scaraventò contro il muro. Oh, così avrebbe voluto strappare e buttare lontano da sé il ricordo di sua madre. Ad un tratto si meravigliò d'aver pianto, s'alzò e cercò l'amuleto, ma non lo rimise più al collo. Poi si domandò se, senza il suo amore per Margherita, avrebbe sofferto ugualmente al pensiero di sua madre, e si rispose di sì. Di tanto in tanto avveniva una specie di vuoto nella sua mente. Stanco di tormentarsi, allora egli vagava col pensiero dietro visioni estranee al crudele problema che lo urgeva. La voce del mare gli pareva il muggito di 1.000 tori cozzanti invano contro la scogliera, e per contrapposto pensava ad una foresta scossa dal vento e inargentata dalla luna, e ricordava i boschi dell'Ortobene dove tante volte, mentre egli coglieva viole, il rumore del vento sugli elci gli aveva dato appunto l'illusione del mare. Ma all'improvviso il crudele problema tornava. E se si fosse emendata? No, no, è lo stesso, è lo stesso. Io devo cercarla, trovarla, aiutarla. Ella mi ha abbandonato per il mio bene, perché altrimenti io non avrei avuto mai un nome, mai un posto nella società. Rimanendo con lei sarei andato a mendicare. Sarei vissuto nella vergogna, forse. Forse sarei diventato un ladro, un delinquente. Sì, e così come sono, non è la stessa cosa. Non sono perduto lo stesso. No, no, non è lo stesso. Così sono figlio delle mie azioni. Però Margherita non vorrà essere mia, perché... Ma perché? Ma perché? Perché non vorrà essere mia? Sono io forse disonorato? Che colpa ho io? Ella mi vuole, sì. Ella mi vuole appunto perché sono figlio delle mie azioni. Chissà, del resto, che quella donna non sia morta. Ah, perché mi illudo? Essa non è morta, lo sento, è viva, è giovane ancora. Quanti anni ha adesso? 33 anni, forse. Ah, è ben giovane. Quest'idea lo inteneriva alquanto. Se ella avesse 50 anni non potrei perdonarle. Ma perché mi ha ella abbandonato? Se mi avesse tenuto con sé non sarebbe più caduta. Io avrei lavorato, a quest'ora sarei un servo, un pastore, un operaio. Non conoscerei Margherita. Non sarei infelice. Mio Dio, fate che ella sia morta. Ma perché faccio questa stupida preghiera? No, ella non è morta. Ma perché dovrei io cercarla? Non mi hai abbandonato, io sono un pazzo e Margherita riderebbe se sapesse che io combatto una così stupida lotta. Ebbene, sono io forse il primo o l'ultimo figlio della colpa che si innalza e si fa stimare? Sì, ma lei è l'ombra, io devo cercarla e farla vivere con me. E una donna onesta non vorrà mai vivere con noi. Io e lei saremo la stessa persona. Domani io devo scrivere a Margherita, domani. Se ella mi volesse egualmente. Questo pensiero lo colmò di dolcezza, ma subito dopo ne sentì tutta l'assurdità e ricadde nella disperazione. Né l'indomani né poi egli poté svelare a Margherita il segreto proposito che lo incalzava, lo sollevava e lo avviliva continuamente. Glielo dirò a voce, pensava, ma sentiva che tantomeno a voce avrebbe avuto il coraggio di spiegarsi, si adirava per la sua viltà. Ma allo stesso tempo si confortava nella vergognosa certezza che la sua viltà appunto gli avrebbe impedito di compiere quella che egli chiamava la sua missione. A volte però questa missione gli appariva così eroica che l'idea di rinunziarvi lo rattristava. La mia vita sarebbe inutile, come per la maggior parte degli uomini, se io rinunziassi a ciò, pensava. E in questi momenti di romanticismo non gli dispiaceva la lotta fra il suo dovere terribile e il suo amore ingrandito morbosamente dalla lotta. Dopo la sera della rissa non s'affacciò più al balcone sulla strada. La vista delle casette, dalle quali neppure i ricorsi alla questura riuscivano a snidare le triste inquiline, gli faceva male. Tuttavia, rientrando a casa, egli vedeva spesso le due donne o sul balcone fra i garofani e gli stracci o sedute sul limitare della porta. Una specialmente, quella del capo di sopra, alta e snella, coi capelli nerissimi e gli occhi di un turchino vivo, attirava la sua attenzione. Si chiamava Maria Rosa, era quasi sempre ubriaca e a giorni vestiva miseramente e girava per le strade scarmigliata, scalza o in ciabatte rosse. A giorni usciva elegantemente vestita, in cappello, in mantellina di velluto viola guarnita di piume bianche. Qualche volta si metteva sul balcone, fingendo di cucire, e cantava, con voce rauca, graziosi stornelli del suo paese, interrompendosi per gridare insolenze ai passanti che la molestavano coi loro scherzi, o alle vicine con le quali litigava continuamente perché ne seduceva i mariti e i figli. La sua voce giungeva fino alla camera di Anania ed egli l'ascoltava con dolore. Maria Rosa gli destava rabbia e pietà, e sebbene la sapesse del tal paese, della tale famiglia, qualche volta egli tornava nella folle supposizione che ella potesse essere sua madre. Sì, dovevano perlomeno rassomigliarsi. Ah, che triste e terribile ossessione! Una sera poi, Maria Rosa e la compagna lo fermarono in mezzo alla strada invitandolo a seguirle. Egli fuggì, preso da un tremito di disgusto e d'orrore. Dio, Dio, gli pareva fosse stata lei a fermarlo. Egli studiava con ardore e scriveva lunghe lettere a Margherita. Il loro amore era perfettamente simile a 100.000 altri amori fra studenti poveri e signorine ricche, ma ad Anania pareva che nessuna coppia al mondo potesse amarsi come si amavano loro e che nessun uomo avesse mai amato con l'ardore con cui egli amava. Nonostante il dubbio che Margherita potesse abbandonarlo se egli ritrovava sua madre, era felice del suo amore. La sola idea di rivedere la fanciulla gli dava vertigini di gioia. Contava i giorni e le ore, in tutto il suo avvenire misterioso e velato, non scorgeva che un punto luminoso, l'incontro con Margherita, al suo ritorno per Pasqua. Anche a Cagliari, durante il primo anno di liceo, egli non ebbe amici e neppure conoscenti. Quando non studiava o non vagava solitario in riva al mare, sognava sul balcone come una fanciulla. Un giorno, verso il tramonto, salì sulle colline di Monte Urpino, al di là dei campi ove i mandorli fiorivano dal gennaio, e si inoltrò nella pineta. Sul musco dei viali abbandonati, il sole calante tra i pini rosei dei viali gettava riflessi delicati. A sinistra si intravedevano prati verdi, mandorli in fiore, siepi rosse al tramonto. A destra boschetti di pini e chine ombrose coperte di iris. Egli non sapeva dove fermarsi, tanto i posti erano deliziosi. Colse un fascio d'iris e infine salì sopra una cima verde di asfodeli, dalla quale si godeva la triplice visione della città rossa al tramonto, degli stagni azzurrognoli e del mare che pareva un immenso crogiuolo d'oro bollente. Il cielo ardeva, la terra esalava delicate fragranze. Le nuvole azzurrastre che disegnavano sull'orizzonte d'oro profili di cammelli e figure bronzee davano l'idea di una carovana e ricordavano l'Africa vicina. Anania si sentiva così felice che sventolò il fazzoletto e si mise a gridare salutando un essere invisibile che era l'anima del mare e del cielo, lo spirito dei sogni, Margherita. Da allora in poi le pinete di Monte Urpino diventarono il regno dei suoi sogni. A poco egli si considerò talmente padrone del luogo che si irritava quando incontrava qualche persona nei viali solitari. Spesso rimaneva nella pineta fino al cadere della sera, assisteva ai rossi tramonti riflessi dal mare o seduto fra le iris guardava il sorgere della luna, grande e gialla, fra i pini immobili. Una sera, mentre stava seduto sull'erba di una china, al di là di un piccolo burrone, udì un tintinnio di gregge pascenti e fu assalito da un impeto di nostalgia. Davanti a lui, al di là del burrone, il viale perdevasi in una lontananza misteriosa. I pini rosei sfumavano sul cielo puro, il musco aveva riflessi di velluto. Venere splendeva sull'orizzonte roseo, sola e ridente, quasi affacciatasi prima delle altre stelle per godersi la dolcezza della sera senza essere disturbata. A che pensava la solitaria stella? Aveva un amante lontano? Anania osò rassomigliarsi all'astro radioso, così solo nel cielo come egli era solo nella pineta. Forse in quell'ora Margherita guardava la stella della sera. E che faceva zia Tatana? Il fuoco ardeva nel focolare e la buona vecchia preparava melanconicamente il pasto della sera pensando al suo caro fanciullo lontano. Ed egli non pensava quasi mai a lei. Egli era un ingrato, un egoista. Ah, ma che poteva farci se al posto di zia Tatana ci fosse stata un'altra donna, il suo pensiero sarebbe volato costantemente a lei. Invece, quella donna, dov'era quella donna? Che faceva in quell'ora? Scorgevano anche i suoi occhi la stella della sera? Era morta? Era viva? Era ricca o mendicante? E se fosse in carcere? Egli si meravigliò di non arrossire a questo pensiero. Per la prima volta, dopo tanti anni, provò un senso di pietà, come quando bambino cercava di scaldare coi suoi piedini i piedi gelati di Olì. Finalmente il giorno del ritorno arrivò. Egli partì quasi oppresso dalla sua felicità. Aveva paura di morire in viaggio, di non arrivare a rivedere le care montagne, la nota strada, il dolce orizzonte, il viso di Margherita. Se però io morissi ora, pensava, con la fronte appoggiata alla mano, se morissi ora ella non mi dimenticherebbe mai più. Fortunatamente arrivò sano e salvo, rivide le care montagne, le valli selvagge, il dolce orizzonte, il viso paonazzo di Nanna venuta a incontrarlo alla stazione. Ella aspettava da più di un'ora e appena vide il bel volto di Anania, aprì le braccia e cominciò a piangere. Figliolino mio, figliolino mio! Come la va? Prendi! Egli gridò e per impedirle di abbracciarlo le gettò addosso la valigia, un involto e un cestino. Avanti, avanti, va avanti, passa di qui, io devo passare di là, andiamo! Si mise quasi a correre e sparve, lasciando la donna stupefatta. Ecco, egli deve rivedere la nota strada, ella lo aspetta alla finestra e non hanno bisogno di testimoni per rivedersi. Come le case di Nuoro sono piccole e le strade strette e deserte. Meglio, fa quasi freddo a Nuoro. La primavera c'è, ma è ancora pallida e delicata, come una fanciulla convalescente. Ah, ecco alcune persone che s'avanzano. Fra esse è Francisco Carchide, che riconoscendo lo studente comincia a far gesti di gioia. Che rabbia! Ebbene, come stai? Bentornato! Oh, come ti sei fatto grande ed elegante poi! E che scarpette da damerino! Quanto le hai pagate? Finalmente Anania è libero. Avanti, avanti! Il suo cuore batte, batte sempre più forte. Una donna s'affaccia al limitare di una porta, guardando curiosamente, ma Anania passa, fugge e da lontano sente esclamare: È lui! Sì, proprio lui! Ebbene sì. È proprio lui, che vi importa? Ah, ecco la strada che conduce all'altra, alla nota, alla cara strada. Finalmente, non è un sogno. Anania sente dei passi e si stizzisce. È un bambino che attraversa di corsa la strada, lo urta e vola via. Egli vorrebbe correre così, ma non può, non deve. Prende anzi un aspetto rigido, composto. Si accomoda la cravatta. Si sbatte con due dita i risvolti del soprabito. Già, egli ha un soprabito lungo, chiaro, elegante, che lei non ha ancora veduto. Lo riconoscerà subito con quel soprabito? Forse no. Ecco finalmente la nota strada, ecco il portone rosso, ecco la casa bianca con le finestre verdi. Margherita non c'è. Perché? Perché, mio Dio? Egli si ferma palpitando. Fortunatamente la strada è deserta, solo una gallina nera passeggia, alzando molto le zampe prima di posarle per terra e si diverte a battere il becco sul muro. Basta, bisogna passare oltre a scanso di essere notato da qualche occhio curioso. Egli comincia a camminare lentamente, come la gallina, e benché le finestre rimangano vuote, egli non cessa di fissarle un istante e si commuove e sente il cuore saltargli in gola. Ad un tratto gli parve di svenire. Margherita s'era affacciata, pallida di passione, e lo guardava con occhi ardenti. Egli impallidì e non pensò neppure a salutare, a sorridere, non pensò a nulla e per parecchi istanti non vide che quegli occhi ardenti dai quali gli pioveva una voluttà ineffabile. Camminò automaticamente, voltandosi ad ogni passo, seguito da quegli occhi inebrianti, e solo quando Nanna, con la valigia sul capo e l'involto in una mano e il cestino nell'altra, apparve ansante in fondo alla strada, egli trasecolò e, sorpreso, affrettò il passo. Parte seconda. 1. Era nell'ora che volge il desio ai naviganti e a quelli che stanno per salpare verso ignoti lidi. Anania è fra questi. Il treno lo trasporta verso il mare, cade una limpida sera d'autunno, grave di melanconia, i dentellati monti della Gallura sfumano nelle lontananze violacee, l'aria odora di brughiere, un ultimo paesetto appare grigio e nero su uno sfondo di cielo rossastro. Anania guarda gli strani profili dei monti, il cielo colorato, le macchie, le rocce e solo il timore di apparire ridicolo agli altri due viaggiatori, un prete e uno studente già suo compagno di scuola, gli impedisce di piangere. E poi ormai egli è un uomo. È vero che gli si credeva un uomo fin da quando aveva 15 anni, ma allora si credeva un uomo giovane, mentre adesso si crede un giovine vecchio. Eppure, la salute e la gioventù brillano nei suoi occhi. Egli è alto, svelto, con due seducentissimi baffetti castanei dalle punte d'oro. La sera accadeva, già qualche stella appariva sopra i monti di Gallura e qualche fuoco rosseggiava tra il verde nero delle brughiere. Addio dunque, terra natia, isola triste, antica madre amata, ma non abbastanza perché una voce potente d'oltremare non strappi i tuoi figli migliori dal tuo grembo, incitandoli a disertare come aquilotti il nido materno, la roccia solitaria. Lo studente guardava l'orizzonte, i suoi occhi si offuscavano a misura che s'offuscava il cielo. Da quanti anni egli aveva sentito la voce che lo attirava lontano, ricordava l'avventura con Bustianeddu. Il progetto della fuga infantile, poi i continui sogni, il desiderio mai spento di un viaggio verso le terre d'oltremare. Eppure, sul punto di lasciar l'isola, egli si sentiva triste e si pentiva di non aver proseguito gli studi a Cagliari. Era stato così felice laggiù. Nell'ultimo maggio Margherita gli era apparsa tra lo splendore fantastico delle feste di Sant'Efes e insieme con lei, fra allegre brigate di compaesani, egli aveva trascorso ore indimenticabili. Ella era elegante, molto alta e formosa, i suoi capelli splendenti e gli occhi turchini solcati dall'ombra delle lunghe ciglia nere attiravano l'attenzione dei passanti che si voltavano a guardarla. Anania, meno alto e più sottile di lei, le camminava al fianco, trepidante di piacere e di gelosia. Gli pareva impossibile che la bella creatura regale e taciturna, nei cui occhi sdegnosi brillava tutta la fierezza di una razza dominatrice, si abbassasse ad amarlo e neppure a guardarlo. Margherita parlava poco, non era civetta, non cambiava aspetto né voce quando gli uomini le rivolgevano lo sguardo o la parola, e Anania l'amava anche per questo e non vedeva che lei, non guardava altra donna che per paragonarla a lei e trovarla inferiore. E più egli diventava uomo e lei donna, e più la passione lo infiammava. Spesso gli sembrava impossibile che anni ed anni dovessero ancora passare prima che ella diventasse sua. Durante le ultime vacanze si erano spesso trovati soli nel cortile di Margherita, favoriti dalla serva che facilitava la loro corrispondenza. Di solito essi tacevano, ma mentre Margherita, o per paura o per pudore, tremava, vigile e melanconica, Anania sorrideva, completamente dimentico del tempo, dello spazio, delle cose e delle vicende umane. «Perché non mi ripeti le parole che mi scrivi?» le domandava. «Taci, ho paura!» «Di che?» «Se tuo padre ci sorprende, io mi getterò per terra e gli dirò: «No! Non facciamo del male, siamo già uniti per l'eternità». «Non aver paura, io sarò degno di te, io ho un avvenire davanti, io sarò qualche cosa». Margherita non rispondeva e vedendola così bella e gelida, con gli occhi illuminati dalla luna come gli occhi di perla di un idolo, egli non osava baciarla, ma la fissava, silenzioso e sussultava, non sapeva bene se di angoscia o di felicità. «Il mare è calmo, Dio sia lodato», disse uno dei viaggiatori. Anania si scosse dai suoi ricordi e guardò la distesa verde dorata del mare, che nel crepuscolo pareva una pianura illuminata dalla luna, le rovine di una chiesetta, un sentiero attraverso le macchie, perduto sull'estremo limite della costa, quasi tracciato da un sognatore che l'avesse condotto fin laggiù, con la speranza di proseguirlo sul velluto marezzato delle onde, attirarono gli sguardi di Anania. Egli pensò a Renato, del quale gli parve intravedere il triste profilo su una roccia guardante il mare. «No, non è lui, è un altro eroe di Chateaubriand, Eudoro, che sulle rocce marine della Gallia selvaggia sogna le rose dell'Ellade lontana. Ebbene, no, no, non è neppure Eudoro. È un poeta che si domanda: questa roccia granitica erta sul mar che fa? Ma la roccia, la chiesetta ed il sentiero sono già spariti e con essi il profilo dell'incerto personaggio. La tristezza dello studente aumentava, domande gravi e inutili gli attraversavano la mente, cadevano senza risposta come pietre buttate nell'acqua. Perché non poteva egli fermarsi su quella costa selvaggia, dolcemente melanconica, e perché il profilo intraveduto sulla roccia non poteva essere il suo? Perché non poteva egli costruire una casa sulle rovine della chiesetta? Perché pensava a queste stupide romanticherie? Perché andava a Roma? Perché studiava? Perché studiava leggi? Chi era lui? Che cosa era la vita, la nostalgia, l'amore, la tristezza? Che cosa faceva Margherita? E perché egli l'amava? E perché suo padre era servo? E perché suo padre lo aveva replicatamente avvertito di visitare, appena giunto a Roma, quei luoghi dove si conservano monete d'oro ritrovate sotterra o nelle antiche rovine? Suo padre era o no un delinquente o un pazzo affetto dall'idea fissa dei tesori che aveva egli ereditato da suo padre? L'idea fissa in forma diversa era dunque soltanto un'idea fissa, una malattia mentale, il pensiero costantemente rivolto a quella donna? Ma trovavasi ella veramente a Roma? E la ritroverebbe egli? Anninia, disse con voce beffarda l'altro studente, dando ad Anania il nomignolo che i compagni gli avevano affibbiato. Fai la nanna? Su via, non piangere. La vita è fatta così. Un biglietto per viaggio circolare con diritto di fermate più o meno lunghe. Consolati, almeno che il mal di mare non verrà a interrompere i tuoi sogni d'amore. E infatti, il mare era calmissimo e la traversata cominciò coi migliori auspici. La luna nuova calava, illuminando fantasticamente le coste e la roccia enorme di Capo Figari, sentinella ciclopica, vigilante il melanconico sonno dell'isola abbandonata. Addio, addio, terra d'esilio e di sogni. Anania rimase immobile, appoggiato al parapetto del piroscafo, finché l'ultima visione di Capo Figari e delle isolette sorgenti, azzurre dalle onde come nuvole pietrificate, svanirono tra i vapori dell'orizzonte. Poi sedette sulla panchina, battendosi dispettosamente un pugno sulla fronte per ricacciar dietro le lacrime che gli velavano gli occhi, e rimase lì, pallido e sconvolto, intirizzito dalla brezza umida, finché vide la luna rossa come un ferro rovente calare in una lontananza sanguigna. E finalmente si ritirò, ma tardò ad assopirsi. Gli pareva che il suo corpo s'allungasse e si restringesse incessantemente e che una interminabile fila di carri passasse sopra il suo petto indolenzito. I più tristi ricordi della sua vita gli tornarono in mente. Gli sembrava di udire, nello scroscio delle acque frante dal piroscafo, il rumore del vento sopra la casetta della vedova a Fonni. Oh, come, come la vita era triste, inutile e vana. Che cosa era la vita? Perché vivere? Così tristemente si assopì, ma svegliandosi si sentì un altro, agile, forte, felice. Si era addormentato in un tetro paese di dolore, fra onde livide, vigilate da una luna sanguigna, si svegliava in mezzo ad un paese d'oro, in un paese di luce, vicino a Roma. Roma, Roma, pensò palpitando di gioia. Roma, patria eterna, abisso di ogni male e fonte di ogni bene. Gli pareva di poterla abbracciare tutta, di muovere alla conquista del mondo intero, già a Civitavecchia, attraversando la città umida e nera, sotto il cielo mattutino, tutto gli sembrava bello e diceva allo studente Daga: «Vedi, mi par d'essere nel vestibolo di una grotta marina meravigliosa». Il Daga, che aveva già vissuto un anno a Roma, sorrideva, beffardo, invidiando l'entusiasmo enfatico del suo compagno. L'arrivo rombante del diretto diede al giovane provinciale sardo un senso di terrore. La prima impressione vertiginosa di una civiltà quasi violenta e distruggitrice gli parve che il mostro dagli occhi rossi lo portasse via, come il vento porta la foglia, lasciandolo nel turbine della vita.